Benvenuto allo studio della parola di Dio. Sta scritto che chi cerca Yahweh comprende ogni cosa. Proverbi 28:5. La promessa di Dio è dunque infinita. L'esperienza ha insegnato che questi studi portano il massimo beneficio se si leggono con la problematica inerente allo studio. Troverai alcuni studi in vari file, perché contengono più verità. Se trovi errori di ortografia, di concetti o altro, ti chiedo gentilmente di farmelo sapere per migliorare lo scritto. Ne approfitto per ringraziare tutti coloro che hanno esaminato gli scritti. Se ci sono riflessioni che non condividi, prima accertati di aver compreso bene, in seguito prendi ciò che ritieni buono. Buttare via tutto incondizionatamente non è da saggi. Nessuno, neppure tu, dici sempre cose giuste. Inoltre, molti aspetti che sul momento mi sembravano i più difficili, in seguito si sono rivelati molto utili per comprendere i profondi pensieri di Dio. Anche se ti sembra un'affermazione presuntuosa, posso testimoniare con il re Davide quando era vicino alla morte. Lo Spirito dell'Eterno ha parlato per mezzo mio e la sua parola è stata sulle mie labbra. 2 Samuele 23.2. State a investigare i profondi pensieri di Dio. Proverbi 25, 2. Benedetto sia il tuo impegno per comprendere Dio, il nostro Signore Gesù Cristo, e la sua parola eterna. Ellero, 17 marzo 2013.